questo è quanto posso darti di me stesso e del mio mondo. Guardami negli occhi e dimmi quando vedi il fondo. Conta tutti i miei segreti, dimmi quanti ne nascondo. Sono questi in ogni giorno, lo vivo ogni secondo. Questo è come vivo la mia vita in questo mondo. Ogni secondo spinge il mio cammino nel confronto. Riporto in superficie i miei segreti e poi l'affronto. Ad ogni passo c'è uno scontro ed io sono sempre pronto. La mia vita viaggia tra correnti differenti, temperature instabili e concetti più eloquenti. Fatta a pezzi tra alti e bassi e sbalzi di umore incosciente. Grida di dolore chiuse nel mio corpo che non senti. Analizzo ogni pensiero e filtro ogni concetto. Prende parte del mio aspetto. Tu l'hai pensato ma io te l'ho detto. Comprendo, confermo e non escludo un tuo commento sul mio conto. Mi metto a confronto e sono pronto. Vivo ciò che vedo e che possiedo. Scrivo ciò che sento e metto amore in ciò che credo. Non mi tiro indietro e spingo i limiti nel cielo. Per evolvere il mio ego e infine esprimerlo nel vero. Sono un ragazzo a posto, con un cervello tosto. Due palle da mostrare, qualche lato che ho nascosto. Una filosofia di vita in cerca di conferme. Ed un carattere più forte del normale che non scherza. Uno tra milioni, posizionato nel posto sbagliato. Ed in continuo sbattimento, non mi sono mai adattato. Sono escluso, schiacciato dall'infamia e pregiudizi che confondono. E in fondo mi han deluso, resto sempre uguale. Mi evolvo con chi veramente vale. Prendo direzioni opposte che fanno paura e male. Vuoi scherzare? Ci metto poco a farmi rispettare. Sono povero nel dire, non nel fare. Questo è quanto posso darti di me stesso e del mio mondo. Guardami negli occhi e dimmi quando vedi il fondo. Conta tutti i miei segreti e dimmi quanti ne nascondo. Sono questi in ogni giorno, lo vivo ogni secondo. Questo è come vivo la mia vita in questo mondo. Ogni secondo spinge il mio cammino nel confronto. Riporto in superficie i miei segreti e poi l'affronto. Ad ogni passo c'è uno scontro ed io sono sempre pronto. Quanti sanno dove vivo, in quanti sanno come vivo. Tu che mi conosci bene, sono un tipo positivo. Mi hai visto forse in giro fare il figo. Forse ha dato ascolto ad un mio pezzo e pensi che sia un divo. Spiacente ma è sbagliato, se questa è l'impressione che ti ho dato. Mi dispiace ma senz'altro non mi hai ben studiato. Se mi conoscessi forse scopriresti che come persona sono come gli altri. Lo so, non lo diresti, forse un po' più avanti, un po' più spinto. Un po' più convinto, è per questo che sto fuori dal recinto. E forse a ben pensarci sono gli altri come me. Loro fanno come me, io non sono come te. Se dovessi fare un salto nel passato e vendicare tutti i calci in culo che mi hanno tirato. Da chi amavo, stimavo ed apprezzavo, adesso sarei solo e chissà come cazzo stavo. Ma malgrado tutto sono ricco di speranza, pazienza. Tengo bene tesa la mia lenza. C'è chi capisce dopo un proprio esame di coscienza. Torna indietro e non sa come fare senza. Conto su chi è semplice, su chi mira dritto a un obiettivo. E poi raggiunge il proprio scopo per sentirsi vivo. Ecco perché scrivo, questa è la mia posizione. Povero di soldi, ricco di passione. Questo è quanto posso darti di me stesso e del mio mondo. Guardami negli occhi e dimmi quando vedi il fondo. Conta tutti i miei segreti e dimmi quanti ne nascondo. Sono questi in ogni giorno, lo vivo ogni secondo. Questo è come vivo la mia vita in questo mondo. Ogni secondo spinge il mio cammino nel confronto. Riporto in superficie i miei segreti e poi l'affronto. Ad ogni passo c'è uno scontro ed io sono sempre pronto. Ho bisogno di contatto, ho bisogno solo di certezze. Per me stringere una mano è come fare un patto. Ai miei fratelli che più stimo, siete nel mio cuore quando rimo. Offro tutto ciò che posso dare ed evito di far del male. Siete voi che mi lasciate un segno poi da ricordare. Non mollate, più siamo compatti e più siamo forti. Fanculo, non riusciranno mai a vederci morti. E le donne, quella giusta è persa chissà dove. Se mi guardi nelle tasche poi è giusto cercare altrove. Non mi muovo, o mi accetti per quello che sono. Mi spiace ma piuttosto resto solo. Posso dare tanto se si tratta di passione, dolcezza. Scarto il materiale, preferisco una carezza. Chi l'apprezza? Chi capisce la ricchezza dell'amore dato da ogni piccolezza? Questo è quanto posso darti di me stesso e del mio mondo. Guardami negli occhi e dimmi quando vedi il fondo. Conta tutti i miei segreti e dimmi quanti ne nascondo. Sono questi in ogni giorno, lo vivo ogni secondo. Questo è come vivo la mia vita in questo mondo.